dici, c'è qualcuno? Quasi. Beh, Marco. Ciao Robè, era acceso. Avevamo parlato a metà serata, poi l'ho lasciato acceso, stavo chattando. Vabbè, e oggi non sei uscito. Sì, sono rientrato adesso, sono uscito stamattina e poi sono rientrato adesso con mia figlia. No, io il giro l'ho fatto ieri, oggi bello, sbragamento totale. E non mi sento nemmeno tanto in forma oggi, ieri stavo meglio. Capita. E un pochino, poca gente, poi domenica chi può va fuori, giustamente, da parenti, da coso. Allora, molte volte succede così. Io sono andato stamattina a fare un giro, ho portato anche a mio padre a fare un giro, che era tanto, che è anziano, e poi, come si chiama, sono andato a mangiare fuori e poi sono entrato. E poi stasera sono riuscito a fare delle compere. Ma in frequenza c'era qualcuno stasera? Sì, Gianni, Claudio, poi un po' in PMR, un po' di movimento in PMR. Poca roba sul 10, un po' sul 23 è entrato qualcuno, ma niente di impegnativo, dai, niente di impegnativo. Ma come mai questi cambiamenti di canale? Ma c'è qualcuno che non si parla con qualcun altro? Perché prima eravamo tutti belli uniti, adesso poi c'è sul 10, sul 20, sul 23, un po' da tutte le parti. No, non credo. È che sai, per esempio, io ho il vizio di tenere il 10 come monitor, chi tiene il 23 come monitor, chi il PMR, quindi magari non ci si ritrova tutti, capito Robè? Questo PMR è buio, non è che sia molto favorevole, non è una cosa che mi piace più di tanto, così fare delle prove ogni tanto, ma c'è un vantaggio di uscire in 27, si riesce a farti sentire più lontano, qua il PMR è solo a livello locale puoi andare. Beh, magari mettendo antenne sul tetto riesci a coprire perlomeno Sassari, ma sta piovendo. Sento rumore qua, sento zocco, boh. Ah, io sono entrato da qualche minuto e non stava piovendo, ma c'era il cielo nero, pronto a scendere acqua. No, ma anche se ti metti l'antenna, cosa vai più? Vai a Porto Torres provando, ok, non ti metti una direttiva puntando verso qualche interlocutore, se no, per me, non lo so, non avevo il vantaggio. Cioè, per farti sentire nel circondario di Sassari, così capisco ogni tanto, dai, andiamo di lì per stare un po' più riservati. Però lei infatti è critica lì, la frequenza è critica, troppo alta, non, poi qua non ne potrei mettere su, infatti io ascolto solo quelli forti, sono quelli molto forti, tutti gli altri non arrivano, quindi è inutile anche piazzare cosa. Ok. Sono senza parole Robè, io adesso mi ritiro in buon ordine. Stavo chattando i bombi qua, mi sono un po' appesantito a pranzo, tu lì, un bel appesantito. Io ho mangiato tanto pesante e poi sono ritornato a casa, ero un po' stanco, mi sono addormentato un'oretta, per quarti d'ora, pure quella con le forze, ma c'avevo una sonnolenza, mamma mia. Ma io con il ricevitore è capitato di ascoltarvi, vi sento tutti, poi non so se c'è qualche altro che non riesco a sentire, ma vabbè, Claudio arriva a bomba qua, arriva a fondo scala, ma sento Giulio considerando che giù ai punti arriva abbastanza bene, pare Santiago Setti arriva, ho sentito a te, ho sentito chi c'era, Luca Flipper, poi chi c'era, anche due o tre ne ho sentito, ma più o meno sentivo tutti, non so poi, ripeto, se c'era qualche altro che magari io non riesco a sentire, di Sassari più o meno li ho ascoltati tutti. Ehi, tu sei in alto lì, magari hai un'antenna per ricevere adatta, magari sul tetto qua, non troppi metri il cavo, non voglio mettere nulla, anche per ricevere non fa, ho quella del terrazzino, bene o male ricevi le solite cose amatoriali, no, ponti o in diretta, tutto lì. Anche oggi mi è venuta la voce afona, porca miseria. Ogni volta che prendo freddo, e ne prendo tanto, mi becca la gola subito. Anche io un po', ce l'ho irritabile la gola, mi raschia subito, poi con tutto il lavoro che faccio, tutte le cose che ho respirato, adesso che arrivi super di 50, i difetti si sentono, i problemi. Io sono ancora a filo di 50. Vabbè, tu per il tuo lavoro sì, solventi di vernici, roba del genere, insomma. Bisogna sempre usare quelle immagini di DPI. DPI, boh. Se no, mamma mia, respirare roba può essere pericoloso a lungo andare. Anzi, io ci sono molto attento all'ecologia, perché siamo stati i primi a Sassari a utilizzare i prodotti all'acqua, le vernici all'acqua dal 1990, poi un po' sono state mollate, però adesso si è obbligato a usare la vernice all'acqua, anche i fondi, quelli a basso contenuto di solvente, trasparenti a basso contenuto di solvente, costano molto di più, però pensiamo anche alla salute e a cose, anche alle altre persone. Ah, vernice all'acqua, anche proprio per i veicoli, non lo sapevo quello, credevo fosse sempre roba con solventi soliti, roba più teccia, più forte. Dice basta che piovendo non si sbiadisca, vabbè. No, ma ti presento le vernici all'acqua, tutte le macchine già da almeno una quindicina d'anni sono tutte verniciate ad acqua, e c'hanno trasparente, sono tutte doppio strato, mica vernici così, se no la prima bio già viene seduto. No, infatti, vabbè. No, non sapevo si usassero vernici d'acqua. Magari non tutti le adopereranno. Se è una cosa innovativa poi costa di più, vabbè, che 15 anni. All'industria costa meno, magari al privato che fa quel lavoro lì gli costa un po' di più, va bene. Ieri adesso cambiamo discorso, ho sentito, mi ha fatto ridere, stavo ascoltando Radio del Golfo, Radio Nova, 93.5 Radio Nova, e il sabato dalle 11 all'1 danno la musica in sassarese, non so se temate a casa, e poi dice questo qua, adesso abbiamo una dedica dall'amico Giulio, e vuole ascoltare una canzone col cognome suo, del fratello, probabilmente il fratello canta, non lo so, ha fatto qualche versione, e ha detto a tutti gli amici Cimbica, che ho detto nome e cognome di Giulio, se lo sai il cognome di Giulio, ho detto nome e cognome, saluta tutti gli amici CB, e qua CB, e l'altro diceva no, CB vuol dire banda cittadina. Non sia che suoni come CB, capito, che non ci vedono CB, infatti, no, ma se tu parli con i giovani non sanno ma cosa è il baracchino, ma qualcuno sì, un po' più grandicello, ma i ragazzi di adesso lo sai, sono i baracchini, boh, CB cosa, la banda cittadina, non sanno neanche cos'è, non conoscono i telefoni, quelli rotanti. Ho visto un programma alla televisione, quello del collegio, oggi siccome quel programma facevano tutto in modo che i ragazzi, come per dire 30-40 anni fa, li mettevano con le stesse cose, le televisioni dell'epoca, i canali dell'epoca, ritenevano per 3 mesi in questo collegio a studiare, eccetera. E adesso avete una volta al mese il modo di telefonare, li sequestravano tutti i cellulari, proprio li vestivano come l'epoca, i capelli tutti tagliati uguali, stiamo parlando forse di più di 30 anni, fai degli anni 60, 50 anni, più di 50 anni, i collegi degli anni 50 e 60 mettevano la musica dell'epoca e tutto quanto, e gli hanno detto una volta al mese dovete fare la telefonata. La prima volta che sono entrati nella sala del coso del preside e gli ha detto telefonate, che hanno visto il telefono, telefonavano, nessuno riusciva a capire come funzionava, una ragazzina si è messa a piangere perché voleva l'ora di sentire i genitori, piangendo perché non sapeva usarlo. Un attimino, Robè. Ehi, intanto faccio una chiamata a generale attenzione al canale 10, chi vuole entrare ancora per qualche minuto e poi si va a mangiare. Ok, avanti, chi vuole entrare? Tutti muti, dai, qualcuno ascolterà sicuramente. Comunque, ci sei ancora Marco? Ehi, ho dovuto bere perché... che palle. Vabbè, io sono sempre lamentoso. Quindi novità, nessuna novità, dai. Ehi, aspetta, scusa un attimo. Prova. Che pasticcio. No, comunque il segnale è tuo, sono rientrato con i picchi, arriva 9.40, poi quando sollevi un pochettino c'è 9.40 pieno. Questi sono 10 watt pieni, 10 watt pieni. microfono ovviamente normale. Cara, non perché ci sei tutti, io ripeto, l'ho sempre detto, una delle più belle modulazioni, parliamo di naturali, come naturalezza e fedeltà, e mi piace tantissimo la tua modulazione, perché molti sono tutte un po' distorte, un po' amplificate, un pochettino cariche di acuti, nasina, questa è una di quelle poche che si sente veramente bene. Eia, questo non è il 3009, Robè, questo è un precedente. Un volgare baracchino precedente, però hanno una modulazione abbastanza bilanciata. E come dicevo stasera, chi l'ho detto? Boh, non mi ricordo se l'ho detto a Gianni. Allora, qui c'hai la feditoia del microfono, no? E qui la capsula è condensatore, però la capsula condensatore non è centrata sulla feditoia, è messa di lato, praticamente isolata, non sbocca da nessuna parte. C'è una sede per la capsula, però davanti c'è la plastica. È una scelta che hanno fatto in casa President. Se bastava fare un foro sul frontale o posizionarla dove c'è la feritoia, magari aprendo un foro sulla davanti alla capsula esce molto molto più forte, anzi sicuramente esce più forte. No, ma c'è sempre una logica, se l'hanno fatto ci sono molti. No, presente, sono delle grandissime radio, soprattutto in trasmissione. Ricezione, diciamo, c'è anche di meglio, però in trasmissione sono fenomenali, non prendono colpi, poi non è come la Lampa 98, esce bene, però cacchio, in ricezione è una grande cagata. Io ne so qualcosa. L'FM500S e il 548SX erano praticamente la stessa cosa, in multimode 3, Viking, era terrificante all'epoca, prendevi battimento da ogni dove, anche non gente attaccata a te, ma anche gente che era 1-2 km, bastava che fosse una stazione forte, splatter, battimento, segnali fantasma, cioè su un canale ti compariva questo segnalino fantasma con le voci di 3 o 4 canali assieme, non so se si dicono intermodulazioni, ma un pasticcio. Invece già con gli apparecchi tipo 3009, insomma con l'IPT 3006 già un abisso, non sentivi più splatter né battimento, un abisso c'era. Sì, ci sono radio che ci hanno dei filtri, sono molto selettive. Io il 497 l'ho sempre detto e sfido chiunque a dire il contrario, confrontato col 140, perché 140 è un HF, con la stessa antenna, commutati due segnali diversi, un abisso, molto migliore del 497. La trasmissione è una gaggada, il multicom, però in ricezione è una bomba. Non ho mai avuto problemi di splatter, di niente. Una selettiva, anche se ti arriva un segnale 960 sotto casa, assolutamente non va in muting, mentre tutti gli altri radio, tutti vanno il patch, basta che superi 930, si ammutulisce, deve attenuare, così tutti gli altri. Poi il multicom c'ha dei filtri allucinanti, è una bomba di radio, poi silenzioso, non prende il QRM minimo, proprio una bella radio. Infatti in ricezione era spettacolare, non posso dire niente, però c'è la 48, mamma mia, il patch appena esce benissimo di trasmissione, il patch è stazione base, però poi ricezione una gaggata. Dimmi un po' cos'è, che presidente c'hai tu? Allora, faccio difficoltà a parlare, mi sta mancando la voce quasi. Allora, il presidente McKinley. Non lo conosco. Io conosco tutta una serie dei presidenti, Lincoln, cosa, un altro, 4 o 5 era, però il Lincoln forse è il più bello di tutti, secondo me. E all'epoca era molto valido. Sì, questo è molto recente, sembra un autoradio, anzi non piace, d'aspetto tutt'altro che bello, non ha cromature, sembra un autoradio, altoparlante frontale, vabbè un sacco di menate, menu, sottomenu, però vabbè, lo volevo, l'ho preso. Sì, Lincoln, sai perché non mi piaceva quando è uscito? Questi tastini colorati, uno rosso, uno giallo, mi sapeva di giocattolo. Invece è uno degli apparecchi che ha fatto più furore assieme al Pluto, poiché sempre il Pluto, vabbè, ha una IPT 3006, il Lincoln non so cosa montasse, la verità. No, il Pluto è una grande radio, il Pluto è Saturn Echo, l'ho dato a Luca e lui mi ha dato il Ruiz, abbiamo fatto scambio, perché a me non mi piacciono i coso, i veicolari, infatti ne ho qualcuno ma non proprio non mi piace. Ma il tuo che stai dicendo, presidente, cos'è, una stazione base? Ciao Antonio, adesso ti faccio entrare, ti ho sentito sotto. No, veicolarissimo, piccolo, sembra un FM500S, però c'ha MFM, SB, CVCV, no, CV no, dai. Antonio, vieni avanti, buonasera. Buonasera a tutti. Sto ascoltando il discorso adesso, sono salito qua. Buonasera a tutti. Lincoln non ce l'ho mai avuto un presidente. No, forse ne ho avuto uno di presidente, è bellino. Ciao Antonio, sei... no, ma Lincoln è completo, una radio c'ha frequenzimetro, c'ha tutti i canali, c'ha mi pare 5 bande, è una bella radio, può anche non piacere esteticamente, però come robustezza e come qualità costruttiva è una grande radio. Già me lo ricordo, io non c'ho avuto un altro presidente, non quello, però adesso non mi ricordo chi era. Io ho avuto tante di radio, poi le ho date e mi sono anche un po' pentito. L'abbiamo parlato in due, Marco? No, praticamente nell'istante in cui stavi mollando ha premuto il bip, no? Ha premuto un istante la portante e poi ha ripreso. Ok, ma mi passa cosa a tu, Marco, come segnale? Perché tu ce l'hai di fronte, cioè se tu alzi l'antenna, vedi alzi l'antenna, vai per l'acqua, ti vedi l'antenna di Marco, ce l'hai di fronte. Non lo so se la vedo da qua, però lui è vicino, cavolo. Provate a parlare assieme, tutte e due, avanti. 1, 2, 3, provate, attenzione, canale 10, allo schiaccio. Allora, il segnale sembrerebbe pari. Però di modulazione passa assolutamente Roberto, per quanto quella di bombolo sia anche buona la modulazione, abbastanza forte. Mi attacco il bambino. Proviamo noi, Robè, io parlo assieme a me, parla. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, prova radio, canale 10, lo crepo. lascia perdere, è passato tutto, io lo sentivo sopra Roberto. Alla prima da casino. Ciao, chi ha detto? Non ho capito, altro chi passa? Marco di brutto. Sì, passa Marco, però io ti sento sotto. Vabbè, io posso anche sollevare, ma me ne faccio nuda. Sicuramente lui è molto più vicino, per quello arriva molto più forte. Ok, dai, facciamo rientrare Emanuele, che ho sentito bombardando anche lui con una radio da combattimento. Avanti Emanuele. Buonasera a tutti, dai. Ciao Antonio, ciao Roberto e Marcolino, a te Robè. Ehi, ti rilancio a Marco e poi Antonio, così ti saluto. Avanti Marco per Emanuele. Ehi, ciao Emanuele, ben sentito, ben entrato, dai. Sì, compagno Roberto, Antonio, tra poco magari vanno a mangiare loro. Riprendi Antonio per Emanuele. Antonio Ceffaraddu. E allora Robè, tutto a posto. Salutone, ben sentito Emanuele. Ehi, Antonio, cazzo, hai scoppio ritardato, sì. No, mi sei girato il canale, vaffanculo, non ti ho messo il lock. Se vuoi ti do un chiodo alla 10, Ciappa. Mi ci attacchi, no, che basco io, me. Ma sai chi è che ti arriva più forte a te, Antonio? Lo profeta arrivi, lo più forte di tutti. Il profeta, se è l'antenna, ha parlato dal terrazzino, lo senti? Beh, è logico che lo sento, arriva forte. Arriva proprio a fondo. Per come ha descritto siete abbastanza vicini. Quanto siete in linea d'aria, Antu? Cosa è vicino, Manco 200 metri sarà. Vabbè. Dimmi, ma io col gommino ti arrivo lì, sì. Col gommino? Tu sei 9 più 15 qua. Andare, dai, la modulazione è bassa. La devo aumentarla. No, cosa bassa, va benissimo, è forte. Antonio è proprio più forte di te, devo dirlo. 9,20 Antonio, quasi, dai. Più vicino a te. E la veloce che passa tra me e Marco? Tu sei la veloce, Emanuele? Sì, sempre qua la veloce. E chi passa tra me e Marco e Antonio? Forse Antonio passa, dai. 1, 2, 3, prova radio, guarda i segnali e poi guarda loro. Bibu, no, tanto non passo, io sono negativo per la veloce. Vai, quindi dai, c'è un bel po'. Manuè, chi passava? Sicuramente Roberto che è più in alto. Ma con chi l'avete fatto? Roberto, prova Roberto, tutti e due, prova Marco. Ha Attenzione, canale 10, prova radio. Lo passo o mi grembo? Marcolino passa. Addirittura, cacchio, allora devo fare prendere provvedimenti, li devo mettere in linea da un kilowatt, così schiaccia tutti. No, ma... No, ma sicuramente, vabbè, io, vabbè, per non stare alza bassa l'ho lasciato a 10 watt, che poi sarebbero 12, il filtro me ne ruba 2 di watt, solito discorso, però 10 buoni ci sono, dai. Ma tu magari stai usando 4 o 5, e poi tutta una... sono prove così, dai. Non me ne è mai fregato niente a me. Ti ricordate che mi ascoltino, poi se arrivo 9 o 8 o 9 e 20 mi ne ho ricordate che in città mi ascoltino. C'era un periodo che a me stranamente non mi ascoltava Emanuele, io ascoltavo lui, la cosa vergognosa era quella. Ecco qua, quando c'avevo l'antenna, però. E quello che mi colpiva, io ti ascoltavo e tu non riuscivi ad ascoltare a me, e tu uscivi con 4 watt, non lo so, che io c'avevo un'antenna buona, in ricezione ti sentivo. Poi la trasmissione non mi ascoltavi, buh, mai successa una cosa del genere? Se ti ricordi c'avevo radiale della Mantova, stavo usando all'epoca. Sì che mi ricordo, però una cosa che non ha logica, che io a te ti ascoltavo, tu con un radiale riuscivi ad arrivare a me e tu non sentivi a me, quello che non ha logica. Ti senti... No, non è che non ti ascolto, ti sentivo proprio basso, basso, basso, non riuscivo a capirti. No, a meno che non avevi l'RFG inchiuso e non te ne sei accorto. No, era tutto aperto, non riuscivo a sentirti, era proprio terra a terra, mi ricordo. Chi è che fischia avanti? Aspetta ancora un paio di minuti e poi vado via, che devo mangiare. Poi mi sembra che oggi c'è anche la nazionale, immagino, se interessa qualcuno. Sul 20 era, ma vabbè. Cosa vuol dire sul 20? Sul canale 20, c'è 2 giorni che stanno andando queste partite qua. Hola. Passavo, vabbè, bombolo di brutto, bombolo è come Claudio, ciao Claudio, è come Roberto come segnale, cioè non, Manuel non c'è storia. No, io stavo parlando un coso, con Roberto e poi ci faccio parlare bombolo. Ma si è attaccato Antonio. Ma devi staccare però, e se attacchi è chiaro che devi staccare, devi parlare a parità di batti di Manuele, prova. Prova a vedere se mi ascolti, prova. Cremo. 1, 2, 3, 4, 5. No, Anto, sei attaccato, non mi butti a me tu, attacca. Sì. Cazzo, se ti vuole attaccare, lo grebo, è un grebo che passi, cazzo, non hai vinti, stacca. Il tuo segnale lo voglio avere staccato, prova. Cazzo, è fondo a scala, no, vi gioco. Beh, un attimo. Sì, cazzo, Anto, se non stacchi. Anziché attaccare ha aumentato ancora di più, adesso è 9,25 qua. Si attacca, io ho il grebo, Emanuele. Tra, ricordate del casco, mi domani che glielo restituiamo. Ehi, non ti preoccupare, domani mattina troppo. Non per me, o sea, cacchio, che mi dice, ma perché lo porti lunedì, siccome era di Marcello, non c'era Marcello, abbiamo telefonato. Sì, già lo so, lunedì finisce in serata però, quindi domani mattina posso usarlo. Ehi, ok. E beh, cacchio, l'altro ti ha Marino. Sì, domani mattina ci abbiamo sentito. Ok, perfetto, Ehi, già lo sentiamo io Marino adesso, non ti preoccupare. E beh, Marco, lì, sto arrivando bene, sì. Adesso sono staccato. Ok, prova Manuele. Ehi, prova. Lì siete, sento un pochino di più Antonio, Manuele, però siete lì come segnale staccati. Ok, perfetto. Perché anche tu attaccato sei, Manuele? No, non faccio lineare, io ho già attaccato. Beh, però sì, io vi devo lasciare, che adesso vado a mangiare e poi mi guardo un pezzo di partita. Ciao a tutti, ciao Manuele, ciao Antonio, ciao Marco e ciao Claudio, e tutti gli eventuali amici qua in ascolto su 10. Ciao, correte da parte mia. Oh, dov'è la partita, Raiuno? Eia. Va bene, la guardo anch'io allora. Raiuno, Eia. Ok. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo. Ciao Roberto, ciao, già ci vediamo domani, ciao. Ciao Roberto. Ciao Roberto, buona continuazione di serata, dai, ce la riascoltiamo. Vai qua. Ma come stai andando tu? Che cosa? Ho manuale, quanto ne sta dando lui? 5 watt sta dando della radio. Quanti watt dà la tua auto? Anche io, dai, un po' di più però, ma poco di più, dai. Vedi, c'è la radio più bassa, capito? Se metti una radio più alta lo passi anche liscio. Capa, così all'incirca sono quelli watt, non sto pompando tanto adesso. Adesso è normale, tranquillo, capito? Andare per fare due chiacchiere, ce n'è, ma come fare i buchi, vieni, dai, che ora si è fatta? Le 8:30 sono, ragazzi, dai, io vi saluto lo stesso, lasciami organizzo la TV e poi ci sentiamo, dai. Buona cena a tutti, buon fine domenica, buon inizio settimana per domani, un saluto circolare a tutti, ciao. Ciao, qua, buona continuazione, dai, vi saluto, alla prossima, ciao. Vai, ah, ciao Cla, ce la risentiamo alle prossimine. Buon tutto. Ok. Avanti Marco. Ciao Claudio, dai, alle prossime. Buona partita, buon tutto e sentiamo. Vabbè, Manuel, bombolo, c'è da dire, qua è fondo scala, come Claudio di segnale, è molto più vicino lui, però tu sei Zatterolce, no, più o meno. Antonio è meno della metà della distanza, perciò è forte qua. Roberto, Claudio e Antonio Bombolo sono i più forti qua. Vabbè, siamo più vicini a te, dai. Ma infatti che sei proprio, si fanno per giocare, dai. In distanza è quello che conta. Io sto usando un gommino lo stesso, un gommino da 6 metri e mezzo però. Se non li metti, arrivi bene tu, Marco. Il numero uno per il nord, centro, sud di Sardegna, non ce n'è per nessuno, è Claudio Sparviero. Tutti gli altri sono noia, come la canzone di Califano. Tutto il resto è noia. Vabbè, e io voglio i fossi, non ce ne fanno proprio così. Ci sono aperture, c'è vicinanza, c'è, proprio si fanno a lunga distanza, però Antonio non la può fare perché c'è ancora questa antenna piccolissima. Quando metterà l'antenna grande, allora vediamo dove arriva. Per il momento sono ancora immune. Pensando per una Superlem. Vabbè, ma la tua non è da paragonare alla mia. Mi sono spaventato Luca Flipper e Luca Manicomio. Ci sono resi conto finalmente dove abito, dice una cosa impressionante. Antonio, non ho niente davanti io, Sassari siete tutti sotto. E poi ho tutta l'apertura per Porto Torre, si vede l'Eniche, infatti Lugon. Ho tutta l'apertura per il mare, ho tutta l'apertura verso la zona di Cagliari, Nuoro, Istano. Se tu ti immagini che io a Pattara arrivo 9-10 con 10 watt. Me lo credo. Purtroppo io a confronto a certi, cioè se tu guardi dove abito io, sono un pochettino in un fossato sono. Però già esco forte lo stesso, non ne ho problemi. Ma dentro Sassari vai bene, dentro Sassari vai benissimo alla grande. Il problema è parlare con tutti, perché fare la radio è ricevere tutti e parlare con tutti, non solo con un Sassari, è lì il problema. Vabbè, purtroppo sono qua io, non è colpa mia, sono in alto e quindi la zona è quella. Va bene, vai, vi saluto, mi sto organizzando la TV, la frappè, ciao ragazzi, vai Emanuele. Domani mi trasferisco a Lucrata al cielo, da Providi, ora. La Lucrata al cielo di Giassari, figli con i pirumattesci. A Maurizio Corra le davo tante di quelle sberle, ma susse che prendeva. Guarda che se tu sali nel mio petto, il grattacielo di Sassari è più basso di me, così è bene. Ti ricordi, non quello di Sassari, che ti saltava le pizze, ti ricordi quando c'era Manuele Sirio? E lì la Manuele Sirio c'era Giovatta, lì, ma vero, vai, si riconosce, io l'ho visto una volta sola, infatti ne sa che è buttato, che pensava di entrare e fare un gravascio. Ha detto, ma con chi stai parlando tu, con quelli di Sassari vuoi parlare? No, anche con fuori, allora facciamo le prove, vieni sul canale 15 che c'è la ruota di Alghero, dai, ci riusci forse. Come stavo parlando, ha dichiarato il microfono, ha detto, vabbè Alghero, tutto a posto. Ha risposto di Alghero, ha detto, ciao Claudio, come mezzo, cazzo, c'ha il radio, c'aveva, e tu era trattenuto, mi sembra c'aveva uno, come il Pluto c'aveva la radio, con l'argentato. Manuè, toglietevi dalla testa che questa è una radio come le vostre, ok? Se io uso 10 watt e tu usi 10 watt, siamo a pari potenza. Io sono quasi a 300 metri a livello del mare, il grattacielo della Teroce è a 160 metri, vale a dire che sono quasi 200 metri e mi nasco. Manuè, non ci sono storie da quassù, ma non ce n'è per nessuno, eh. A me mi arriva Monterraggio, col gomino nella finestra. Ci sono radioamatori che non sentono manco con l'antenna sul tetto. Però in digitale ti frego io. Tu sei forte in digitale, io sono forte con le corna. Anche nei punti più disgraziati, io riesco sempre a collegare. Sì, beato te che ti piace fare digitale. No, c'è manco di cosa stai parlando, figurati. Io sto parlando di 27, sto parlando di niente. Sto parlando di 27. Che prove ne ho fatto tante, Emanuele, ma tante, tante, tante. Se tu vieni qua, l'altro giorno tu non c'eri, prova a dire a Luca Fritto la verità. Il grattacielo di Sassari, il grattacielo della Teroce, siete tutti sotto, tutti sotto. Sotto, siete nani, nani, nani. Tu dal tetto tuo praticamente lo vedi lì sceso il grattacielo. Certo che sì, anche il grattacielo di Sassari, sia il piccolo che il grande, tutto sotto rimane. E se sono quasi, insomma, allora io, la punta di via Milano dove abito io, misurata con il coso, l'altimetro è 286 metri, dove sono io, proprio, all'ingresso a metà strada di via Milano. Io vi consiglio 40 metri di palazzo, 45 metri, dove sono le antenne, fatti un bonto. Cazzo, figurati. No, no, niente, ti sto dicendo, tu dillo a Luca Flipper e a Luca del Monte, che già devi dire. Ha fatto un video, l'ho messo su YouTube. Ma io sento, a me c'ero sopra un elicottero, però ci credeva. Sto dicendo che è altissimo, alto, molto alto, ma è aperto, non ho niente. Nulla, non ho un muro, un palazzo davanti che mi possa dare fastidio, niente. 360 gradi di apertura, capito? Non lo dico io, si vede, cioè non c'è niente da fare, capito? Quindi prove ne ho fatte tante, è così. Beh, prendetela nel quesito, lasciatemi andare. Comunque non l'ho scelto io di venire qua, l'ha scelto mia moglie. Bombolo, riprendi, ciao Gianfra, un abbraccio, ciao a tutti, buon divertimento, buon fine serata, buona domenica, eccetera, eccetera, ciao. E a capo, ciao Claudia, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti, Emanuele. Ciao qua, buon corretto con tutto, dai, alla prossima. Dai, Marcoli. Ciao Claudio, alla prossima, dai, sentiamo. È entrato anche Gianfranco, ciao Gianfranco. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Oh Gianfranco, ho fatto a tempo perso le prove col box, con adattatore e microfono, però un pasticcio. Mi sono buriato e ho stracciato tutto e non ne uso, lo faccio prima. Come rinunci in fretta? No, perché era strana, era incostante la cosa, cioè attaccava troppo, allora ho abbassato il guadagno, la sensibilità, attaccava troppo, non attaccava nulla. Poi c'è poco da fare, devi tenere il mic attaccato alla bocca, il microfonino attaccato alla bocca, se lo distanzi non, cioè questa radio non è amplificata, anche col guadagno del box a manetta non va da nessuna parte. E quindi a fangala, come dicevano in quel film dei primitivi. Vai Antonio. E scappa. Stava facendo le prove. Vabbè, io vi lascio perché, cavolo, stanotte ho dormito pochissimo. Ho dormito. Ce la risentiamo alle prossimine, ok? Io vi lascio. Buonanotte a tutti in circolare. Anche io, dai, ciao Roberto, Antonio, ciao Marcolino, ciao Gianfranco, ci riascoltiamo quasi ormai in settimana, ciao a tutti, vai Marcolino. Ehi, dai, ciao Emanuele, ciao Antonio, Buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Io piano piano sto perdendo sempre più la voce. Giafra, vabbè sì, dopo tutto non ne vale la pena. Box non box, a meno che non serva un microfonino diverso, metti che quello del computer abbia un'impedenza leggermente diversa, che ne so io. E comunque una rottura di palle, ecco. Tanto a casa, finché ho l'uso delle mani, aspetta che mi tocco ferro e non solo, qui c'è il mic normale, e in macchina pure. A parte che in macchina, chi lo porta più il baracchino? Tanto le poche volte che l'ho portato non vale un'anima, in nessun canale, né 23, né 20, né 10. Sono rimasti solo modulo. Eia, non tarderemo anche a vediamo se c'è qualche pastrocchio alla TV. Sì, funziona meglio col mic palmare, cioè è più costante la prestazione col mic palmare, però sempre deve avvicinare troppo la bocca. Si deve mettere quei microfonini tipo la di Filippi, no? Che vanno proprio fino al lato della bocca. Forse si può tentare, no, non ne vale la pena, fidati. Sì. Io ho fatto ma l'ho dovuto autocostruire proprio per il discorso che c'era prima, perché mi vanno per la copertura di tutto il sistema digitale, capito? Perché gli apparati devono essere interfacciati, solo che con quelli classici è una rottura, guarda. Sono tutti giocati con gli altri a livello invece insomma, professionale con la P, però quelli con la P maiuscola, con quelli non c'è problema, si distingue proprio, crea un muro tra i giocattoli anche costosi e gli apparecchi seri. Infatti il sistema è, non dico perfetto, ma molto vicino ad essere perfetto. Quindi, perché hanno dei sistemi di commutazione proprio eccellenti. Questi qua invece, questi baracchini, questi apparati amatoriali, danno una montagna, ma una montagna di problemi tra mesi. Le trick e track, box che funzionano per morire, quindi è così, non fare niente, purtroppo. Sì, purtroppo il sistema di interconnessione, che in gergo si chiamerebbe network, è difficile da collegare in 27, a meno che non usi esclusivamente l'FM, mentre sull'altra frequenza, essendo in digitale è puro, puoi fare tutto quello che ti pare, capito? Sarebbe una figata però provarlo in 27. Altro che altezza, E poi l'FM è poco, anche il solo FM è usato, non è usato da noi, non è usato. Qualche spagnolo ho sentito facciarsi più spesso adesso in FM, cosa eccezionale, perché loro più che banda laterale non andavano, per i DX, dico. E invece ho sentito in FM persino gli spagnoli, persino. Poi vabbè, col ricevitore SDR online ho sentito che in città come Roma, ho sentito CB parlare spesso in FM. Però vabbè, a Sassari no, a Sassari non lo usiamo, così dai. Dunque ho provato un attimino a inserirlo il box, però ho toccato i parametri, sono solo tre, poi mi pare sia la sensibilità ovviamente del box, il ritardo nello staccare la portante, poi c'è un filtro contro i rumori di fondo, tutto lì. Però adesso già ho dimenticato la prassi per regolarli, se non vi faccio sentire il mic, questo mic. Non cambia nulla, poi timbrica è quella, perché il mic è quello. E quello esterno, vabbè, un po' deluso. Comunque il box, detto tra noi, non è che mi sia mai piaciuto, nemmeno sui PMR, era un po' una rottura di scatole. Cioè, se non sei proprio costretto a usarlo, io preferisco usare le mani. Sì, però ripeto, è una una questione di apparecchi, perché quelli grigio. Dai Luca, caro caro, volare anche in maniera fina, hanno io credo 10 gradi di regolazione, tanto come guadagno eccetera, ma se lo metti già col tuo microfono senza mettere quello da palmo senza niente di particolare, anche se i colari, per dire, già una tosse leggerissima te lo fa scattare a distanza di 2 metri nella stanza, figurati chiudendo la porta già lui scatta, per dire i livelli di sensibilità. Sì, ciao Luca. Dunque, sì, io credo che avesse almeno il microfonino esterno una sensibilità ambiente, ma se non mantiene la stessa sensibilità del microfono da palmo, cioè ti allontani di pochi centimetri, già non attacca, a meno che non ti metti a urlare, no, non ha senso così, dai. E poi questi sono giocattoli, sono baracchinacci, ecco, non è roba professionale, dai. Luca, riprendi. Sono intanto a salutare perché devo fare roba, Marco. Sto creando un power bank, dai, che mi hanno dato il chip e adesso me lo creo. Dai, se magari lo ascolto, ma rientro dopo se ci siete. Ehi Alu, dai, ti saluto da adesso perché tanto mi adesso un po' di TV, poi si vedrà. Sentiamo, quindi stai facendo un power bank con accumulatore, microchip di controllo e tutto quanto, dai. Ok, dai, sentiamo le prossime. Vai Gianfranco. Sì, ciao Luca, ben ascoltato. Oh, meno male c'è ancora qualcuno che fa autocostruzione. E ora, anche di lì molti sono latitanti, vabbè che poi ci sono anche quelli che fanno autocostruzione. E non sono in radio, lo stesso fanno tanti soggetti. È una bella cosa, peccato che io ci vado sempre meno, se no, anche se lo sto facendo, però è sempre più difficile. I componenti quelli grandi, gli SMD, UI, neanche a vederli, non li credo per niente. Ciao Luca, ancora buona cena, se non la so. Riprendi Marco. Sì, la vista purtroppo non è quella di quando ero giovane, poi a parte un po' la miopia, un cavolo. Allora, prima mettevo a fuoco molto più vicino, tipo 25 centimetri, adesso devo allontanare l'oggetto notevolmente, non so cosa sia, quindi... Sicuramente la capacità del cristallino di contrarsi si è ridotta e niente, devo guardare un oggetto meno da vicino rispetto a una volta. Infatti ho preso nel caso, nel malaugurato caso che dovessi saldare, ho preso quelle lenti da Lidl, una lente a ingrandimento che ha la luce LED intorno, no? Per i piccoli particolari o micro trimmer da regolare, solita storia, no? No, io invece nei casi gravi tutti utilizzo la cuffia, cioè la cuffia che ha tanti vetrini, no? Che si mettono intercambiabili a seconda dell'ingrandimento che ci serve. L'ho usata avanti ieri che ho fatto una soldatura particolare. Di norma preferirei non farla, ma erano fatte di necessità. Su un componente grande quanto la radice di un cappello, guarda, guardate proprio il soldatore con la punta super fina, ma è proprio un rischio, no? È un rischio grande, però anche se la vista è quello che è aiutata parecchio con questi fotocchiali, ma almeno la mano non si ferma, è da firma di tutti. Dicono che parte anche la mano, oh yeah, sono guai. Ehi, avevo visto a crocchi tipo occhiali da chirurgo, forse da un sito cinese, praticamente una montatura tipo occhiali, li vedi sempre quei telefilm, Grey's Anatomy, roba del genere, Dr. House, è una tipo montatura per occhiali, come due oculari, e loro a distanza di un metro, insomma, cioè a lunghezza di braccio, probabilmente ingrandisce. Sarebbero carini da trovare, anche non professionali, perché professionali costerebbero una follia a parte. Tipo AliExpress, Banggood, quei siti di cinesate, dico io. Beh, sì, anche questa che ho io è una, credo, una cinesata. Ha anche la luce, ma non lo utilizzo mai. Però questi sono grandi, capito, cioè è una cosa proprio ad hoc per fare le soldature. Cioè questa fascia che ti metti in testa, no? Tipo berrettino, e c'è questa lente unica intercambiabile, anzi no, scusa, ne ha due, c'ha due lenti, una che già ingrandisce, poi abbassi la seconda che è proprio a livelli, non dico di microscopio, ma quasi. Sì, visto, credo di aver visto anche quello. Sì, una lente come un po' divisa in due in modo che sia ottimizzata per ogni occhio. Ma questo serve per avvicinare molto, cioè lo devi avvicinare molto all'oggetto, oppure a distanza di braccio ingrandisce la roba, dipende quanto sono, come sono fatte le lenti, insomma. Dai. Ma non so se c'è presente gli occhiali da ciclista, no? Che sono un tutt'uno. Ho fatto così. Un'unica lente, proprio lente vera e propria, che si attacca al coso lì, al supporto, che a sua volta è orientabile, quindi lo puoi alzare e abbassare. Ne ha due di questi supporti, da una metti la prima lente, se poi necessaria anche la seconda, ci metti anche la seconda. E c'è vari formati di lenti, credo che ce ne siano 5 o 6, in modo da scegliersi un po' le dimensioni di ingrandimento, ecco. Ah, buono, puoi variare anche l'ingrandimento, scegliendo la diottria giusta, è carino. No, dicevo, non ho sentito però se tu ti devi avvicinare molto all'oggetto con questi occhiali, con queste lenti, oppure puoi stare a distanza di braccio, tipo chirurgo me. Allora, quelle del chirurgo lavorano a distanza di braccio proprio in motivi, perché non ci deve entrare la testa dentro. Queste qua invece le utilizzi anche molto da vicino, per vicino intendo 20 cm, in modo da avere tutto il campo dettagliato, ecco, quello che ti interessa fare. È come avere una lente di ingrandimento, però senza mani. Ehi, anche quella è utile, sì, soprattutto perché lascia le mani libere. E vediamo cosa si trova. Poi queste lenti, vabbè, quelle che ho preso io, tutte lenti, presumo siano pure in plastica, non credo nemmeno le facciano più di vetro e cristallo. Visto il prezzo, è tutto in plastica, lenti, montatura, tutto, oppure le batterie. Ci danno anche le batterie di serie, per un prezzo ridicolo, è incredibile, guarda. Lo so, l'importante è che non si sia rimasto la dogana, perché sennò poi non esibi. Adesso con tutti questi casini che ci sono di virus, click e track, mamma mia, non vedo l'ora che passi quest'anno, che possibilmente l'altro ci faccia respirare almeno. Ahia. Stavo pensando al discorso dogana l'altro giorno, no? Tipo apparati presi dalla Cina. Allora, è capitato, diciamo, più e più volte, anche a me, che arrivasse tutto senza dogana, quindi presumo che vadano a campione, cioè non controllano sistematicamente il valore di tutti i pacchi, che credo che non sia umanamente possibile farlo. E poi quando beccano il fortunato gli fanno arrivare qualcosa lì da compilare, o non mi ricordo come sia. Vabbè, a parte i venditori cinesi, compri una cosa da 100 euro e ci scrivono un valore e $15. Ma mi sta mancando la voce proprio, capito Gianfra? compri una cosa da 100 euro, valore dichiarato 15 dollari, su quella parcella che hanno loro, come si chiama, la CN22, no? Quella che applicano sul pacco. Non so, perché io trovo tanta roba, in effetti non è passata dalla dogana, però non è neanche, non ha neanche raggiunto il valore della dogana, perché il prezzo è basso, è una busta, si dire, dove c'è la roba, quindi di lì non si mettono neanche, perché vedono anche passando da poi a raggi, però di cosa si tratta. La roba che veramente hanno interessa poi è tutta grande, quella che fa valore è grande, questa è una radio eccetera, si accorgono subito che sono componenti elettronici e di lì poi nascono i problemi, capito? Perché se quello, come dici tu, dichiara che è 10 euro, sai, a seconda di cosa è, tutta la bloccano, sono casini vari. Niente, a me con la DHL ad esempio erano arrivati due radio a portarli tanti anni fa, erano andati infatti al muro a ritirarle, quando le ho ritirate c'era il coso della dogana, ho firmato, ok, le ho date su, dicevano la differenza, ma pochi spiccioli, messo la firma e ho ritirato il pacco normalmente, niente di trascendentale, ecco. C'è una franchigia, quanto era? 22 euro o 25 euro? Al di sotto della quale non paghi nulla, né IVA né diritti fissi né nulla, era comunque poco insomma. Ecco perché i cinesi scrivono sempre valori, dichiarano valori sotto i 20 dollari, no? E poi c'era, sì, per esempio 409 spediva con DHL, dice per l'Italia spedizione con DHL, perché non lo so, forse sono meno controllati i pacchi, che ne so io, boh, non lo so. Fatto sta che raccomandavano vivamente questo tipo di spedizione, a parte che arrivava anche molto molto prima, infinitamente prima. Poi c'era qualcuno che aveva fatto degli artifici, ho letto su forum amatoriale, per avere i primi Vox sono usciti, no? Qualcuno se l'ha fatto spedire tipo roba piego libri, c'era scritto gente da IVA, i sensi da, sono imbrogli di vario tipo per non pagare la dogana. Lo so, però poi non conviene alla fine, perché lo sequestrano la roba e ti mettono anche la sanzione, oppure la roba sparisce e la buttano al magazzino, non ricevi niente e è pagato, capito? Quindi ma normalmente anche roba pagata in anticipo, si pensano 20 euro, vabbè pazienza, quando mi stanno a essere cifre interessanti fai il turbo e te, insomma c'è la dietro poi. E poi sai cos'è? Certe cose dalla Cina le si prende perché qua non le trovi, più delle volte in Italia non le trovi, ma oggettini, parlo sempre di oggettini e non roba costosa, però anche se fosse roba costosa, cose radio, che ne so, anche cellulari, smartphone, io non la prenderei mai dalla Cina perché non hai nemmeno garanzia. Cioè non sai se arriva con le normali, se usi le spedizioni gratuite, non sai in che condizioni arriva, se è stato calpestato da qualche elefante, il pacco, da qualche furgone, che ne so, muletto, e poi non hai garanzia alcuna, cioè se arriva rotto di fabbrica, non funzionante, te lo attacchi, già hai capito. Sì, guarda, a me faccio l'esempio, ho preso degli attrezzini, cioè attrezzini, un coso di quella radio che servono per ascoltare le nuove radio, no, che sostituiranno l'FM, e questo era un oggetto da macchina, un convertitore, diciamo così. Cosa è successo? Che questo attrezzo non funzionava, era proprio una cagata, però essendo da Amazon sono andato lì, ho rivalzato e dopo tre giorni mi hanno rimborsato. Sono stato cinese, questo è stato attaccato al tram, avrebbe perduto 20-30 euro. Quindi quei 20-30 euro che magari risparmi da una parte ce li perdi dall'altra. Comunque dalla Cina di norma arrivano, solo che arrivano dopo 3 mesi, 4 mesi, cioè cose allucinanti. Ma soprattutto il ritardo è quando arrivano in Italia, lo vedono la Cina, allora sì, questi già c'è tempo a consegnare. Quindi rimangono fermi nei magazzini per tanto tempo, una rottura di palle, perché non c'è logistica proprio, capito, su quei pacchi. Tutta roba che tarda e alla fine quando ti arrivano tutto il vestito, tutto lì, e quindi conviene prendere anche l'ama, come arriva molta roba cinese, tra l'altro tutto ho preso tanti componenti, intere scatole che nel corso della vita sicuramente non userò, perché non posso consumare 100 condensatori o 500 resistenti, pagando mai. E quindi le ho prese per averle, perché magari qua non le trovo, quindi ce le ho buttate in cassetto. Però a comprare poi roba seria non ne vale proprio la pena oramai, perché è così, cioè economicamente non conviene, potresti pagarla più cara poi alla fine, di come la prenderesti qua tramite B, tramite circuiti comunque garantiti, dai. Eccomi, mi sono coperto con la felpa perché qua qualcuna mi ha aperto di nuovo finestra e tutto, e sta entrando una ghiaccia, porca miseria, mi sta attanagliando la gola, è una cosa incredibile. Tanto io ho perso il filo del discorso ancora una volta, Gianfranco, vabbè. Volevo aggiungere qualcosa solo, per esempio per prendere gli smartphone, no? Oltre tutte le cose che ho detto prima, che potrebbe non arrivare calpestato, arrivare senza garanzia, è il colmo che uno per risparmiare magari si prende i soliti, che ne so, Xiaomi dal sito cinese, no? E oltre a non avere garanzia e tutti gli altri rischi, ti fanno anche pagare la dogana, e quindi l'hai pagato come in Italia, in più non hai alcuna garanzia né niente. E vabbè. Ma io preferisco, se per computer, comprare, ma nemmeno online, possibilmente al negozio di elettronica, al Media World, quello che è un euro. Cioè, mi piace più vederlo sul momento l'oggetto, toccare con mano, capito? Sì, anche se sono discretamente cari quelli. Ti volevo dire, questo telefono in particolare c'è anche un problema, che se sono che lo prendi non ti mette l'indicazione Italia o Europa. Quando arriva l'oggetto magari ti trovi un po' come è successo qualcuno con dei TMR che in realtà erano FMR, si è trovati che lavoravano sugli 800, su una banda telefonica europea, capito? Quindi inusabili praticamente, perché ogni nazione poi alla fine ha le sue bande di frequenza segnate, no? A seconda della regione. Se hanno un telefono cinese è un casino che funzioni qua in Italia, perché le frequenze ovviamente sono diverse, a volte anche determinati sistemi, e purtroppo è così, bisogna stare attenti a quello che c'è scritto poi sulle funzioni, che siano veritiere tutto lì. Niente, no, io guarda, sono perseguitato invece ultimamente dai connettori. Oggi volevo accendere il ricevitore, quello SDR puro, non quelli a chiave, questo è una cosa seria, da 0 a 50, e tutto l'aspetto è da 0 a 50. sono andato a attaccarla e non funzionava, ho detto, o meglio funzionava, però segnali bassi bassi, ho detto cavolo. E sono andato a vedere meglio, toccando l'antenna, e vedevo che un po' saliva, un po' non saliva. Quindi guardato lì, ho dovuto cambiare qualcosa, c'ha i due connettori piccoli, SF, come io lo chiamo, mi sono dimenticato adesso. E quindi l'ho sostituito, non ricordo niente, ho dovuto aprire anche l'apparecchio, una rottura, non ti dico, tutta la sera tentando di rimediare. Alla fine poi ho analizzato proprio il cavo, un pezzettino di cavo di connessione, tipo il RG58 era totalmente attaccato, tagliato. E adesso mi sta capitando con i connettori interni, quelli che sono alla pioggia non succede niente, quelli interni al riparo hanno tutte le maledizioni possibili e immaginabili. Poco fa hai parlato di versioni global, guarda che a me era successa una cosa del genere con un telefono Xiaomi comprato in loco da un grosso punto vendita. Persino sulla scatola c'era scritto versione globale, qui insomma era una versione cinese e hanno caricato il software sempre attivo global, al primo aggiornamento tutto bloccato, tutto impallato. E queste sono schifezze che su Amazon venivano fatte, bella gente si è lamentata che i telefoni erano una versione cinese e poi col software o sempre attivo global. Mi hanno dato problemi, però che lo facesse un grosso centro vendita proprio, vabbè, già capito il senso, no? È un pasticcio, cioè io ho evitato i siti cinesi per evitare queste porcherie, ho evitato anche Amazon per evitare queste porcherie, comprato da un rivenditore ritenuto affidabile e mi sono ritrovato la stessa identica sorpresa. Infatti capita anche quello, bisogna stare attenti, tra l'altro ho detto poco fa che ti ha aperto la finestra, che ha aperto la finestra e c'è il freddo, ma guarda, oltre al freddo c'è anche un altro problema, che ti entrano le zanzare. Adesso mi ha fatto un bombuglione, qualche zanzara bastarda, ieri ne ho già fatto fuori una, che sono più frequenti adesso che quest'estate, guarda, è una cosa micidiale, sono quelle proprio tiriose. Adesso vado a mettermi la crema. Sì, sono più tiriose perché stanno per schiattare un po' per la temperatura più bassa, soprattutto la notte. Vabbè, ma io tanto uso il gas nervino, piastrina su fornelletto, è finito il gioco. Ecco, adesso si spiega perché c'è sempre mal di gola. Qua l'avevamo messo in corridoio un fratello, sono passato e senti che si crampi la gola, tosse, forse che con l'affare sotto nel fornellino, fanno parecchio male. E chi lo sa, magari anche colpa di qua, io lo uso non tutti i giorni, ci mancherebbe, poi loro consigliano di utilizzarlo e poi prima di soggiornare nel locale arieggiare, cioè riaprire la finestra e cambiare l'aria, sì, così rientrano le zanzare, però va via l'effetto gas nervino, rientrano le zanzare, siamo tutti a capo. Lo so, ma poi mal di gola e poi mal di testa sono uccisi, quindi meglio evitare. Ma infatti le volte che lo uso non faccio entrare i gatti in camera, non voglio che rimangano a dormire da me i gatti, perché poi non va peso corporeo, cioè loro sono più piccoli e la concentrazione nell'aria di questa roba potrebbe fargli più male. Ok. Per le zanzare sì, le prende dal sistema nervoso, devi vedere che cominciano a barcollare, no, poggiate sul muro, a sbilanciarsi, a cadere. In effetti è come il sarin per noi. Beh, quello provoca emorragie, più che altro emorragie oculari anche. cose di quel tipo. Beh, guardo lì, oggi purtroppo mi ha fatto tardi, quindi rimandiamo a domani, che ho iniziato il telefilm, guardo cosa di, come si chiama, NCIS Los Angeles. E così ho fatto la serata. Ah, in CIS, sì, carino, carino, meglio di altre cose, meglio della di Filippi già è, o del grande bordello VIP, e tutte quelle Temptation Island, tutte quelle mignottate che fanno in TV adesso. Ok, Giappra, dai, ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao, buona serata, buon tutto. Ok Marco, domani se ci sentiamo, se non mi si guasta, se non mi si guasta qualcosa d'altro, sentirò un po' più presto, me l'auguro, perché ogni tanto già lo sai, ce n'è una. Buona serata per adesso, a domani, ciao ciao. Aia, ciao ciao ciao, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ah, ciao lui, eri all'ascolto, Aia. Perdona la mia memoria, ma sono rimbambito. Anzi, credo poi che avessi chiuso addirittura. Dai. Ciao Lu, buonanotte, dai, buona foto, dai. No, sto cambiando il PTT del Buffet, dai, che mi ha calutenza, si è fatto un po'. Cioè, si è mezzo rotto, dai, non lo fa cambiare, me l'hanno dato. L'ho già disaldato da quello che me l'ho dato, sono piatto quello mio, dai. Ciao Marco, domani, buonanotte. Qual è quello con i bordi arancio? Esausto. Esausto, io credo che ormai non ci sia nessuno che non abbia quel modello. È molto carino, molto carino, anche la tastiera illuminata molto bella. Poi per quel discorso di quell'apparecchio da AliExpress, prezzi eccezionali, eccezionali. Da prendere quella cosa lì, da prendere. Quando è uscita costava sotto i 300, dai 250 ai 290, una cosa del genere. Prezzi mai vissimi, cioè è una cosa incredibile. Quello è anche, non è mica di chi si dà 50 euro, no. Non è l'Eixen, quello è buono. Ok, dai, buona serata con tutto. Ciao Lu, ciao. Ciao.